GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Pare ormai imminente la nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Trieste Monfalcone, a un mese dall'indicazione di Marco Consalvo per la carica. Al Tribunale di Udine si entra nel vivo il dibattimento del processo per la morte del volontario di protezione civile Giuseppe De Paoli, travolto da un albero il 29 luglio 2023. Anche oggi aula gremita di fasce tricolori di sindaci a supporto del primo cittadino di Preone tra gli imputati nel procedimento. Tra le misure confermate nella nuova legge finanziaria del governo spicca la proroga del bonus ristrutturazioni, che mantiene inalterate le detrazioni per i lavori edilizi anche per il 2026, del 50% sulla prima casa e del 36% sulla seconda. Presentati dalla Trip Mare, i due nuovi rimorchiatori che prenderanno presto servizio nelle acque del Golfo di Trieste. Questa scuola mi distrugge, il grido d'allarme lanciato nell'ultimo appuntamento di Affascinati dal cervello, la rassegna sulle neuroscienze dell'Istituto Regionale di Studi Europei, nell'auditorium Casa dello Studente Zanussi di Pordenone, pensato in particolare per i ragazzi delle scuole. Il caso degli odori nauseabondi segnalati dai cittadini di alcuni rioni di Trieste, che potrebbero originarsi dai depositi della Siot in zona industriale. A rispondere è il presidente e amministratore delegato Alessandro Gorla. Presentati poco fa nella sede della regione Udine i super dizionari De Lenghe Furlane, curati dall'ARLEF, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, la più potente piattaforma online sulla lingua friulana. Per la stagione della Contrada debutta alle 20:30 al Teatro Bobbio di Trieste la nuova produzione Baruffe, dove Goldoni incontra la Trieste degli anni 30. Nostra intervista alla protagonista, l'attrice Ariella Reggio. Le 12:32 in questo istante, avete appena sentito i titoli della seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 16 ottobre, e ancora un buongiorno da Giorgio Beerzi e Daniele Letti in studio. Sembra sia ormai una questione di ore la nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Trieste, Monfalcone. Potrebbe sembrare l'ennesima promessa, ma l'indiscrezione stavolta arriva proprio dall'entourage dello stesso governatore Fedriga. Abbiamo perso opportunità importanti, siamo stati fermati al box per 5 giri perché eravamo andati troppo avanti. Così si è espresso in merito Francesco Parisi, storico operatore del Porto Giuliano. Porto di Trieste, per operatori e sindacati, lo scalo è congelato quasi praticamente da un anno e mezzo dall'addio anticipato del presidente Zeno D'Agostino, ma sul volo in partenza per gli States, dall'entourage del presidente della regione Massimiliano Fedriga, sarebbe questione di ore, da capire come e quanto incida il fuso orario, vien da dire, ma a quanto pare potrebbe davvero uscire una nota stampa a breve con il nome ufficiale del nuovo atteso presidente dell'autorità portuale di Trieste. Un'indiscrezione che al momento non trova conferme ufficiali. Lo stesso vice ministro Edoardo Rixi ieri ha annunciato che la prossima settimana si sbloccheranno le nomine per Bari, Messina e La Spezia. Trieste non è stata citata, eppure gli assessori Alessia Rosolene e Fabio Scoccimarro, sul palco della Capitaneria del Porto, pochi minuti fa durante un evento pubblico, hanno fatto un passaggio sulla necessità di arrivare alla nomina. Sembra dunque una conferma che qualcosa si stia muovendo. Al termine della cerimonia in Capitaneria abbiamo chiesto un commento a Francesco Parisi, storico spedizionere e profondo conoscitore del porto. A ore la nomina, ci crede? Speriamo veramente, perché dopo un anno e mezzo abbiamo assoluta necessità di avere una persona che possa perseguire delle strategie di medio-lungo periodo. È un commissario, bravissime persone che hanno ricoperto il ruolo di commissari, per legge hanno dovuto seguire solo l'ordinaria amministrazione. In un anno e mezzo tante opportunità sono state perse. Tante cose sono state rinviate, sono rimaste al palo, ecco, e questo non va bene, perché l'economia non può star ferma un anno e mezzo. Un esempio la scorsa settimana cosa? No, un esempio principale sono l'attesa che abbiamo dell'avvio del progetto della grande stazione ferroviaria di Servola e la gara per il Molo Ottavo. Sono almeno un anno di ritardo, ecco. E questo nel mondo dell'economia lo pagheremo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nuova udienza in tribunale a Udine nel processo per la morte del volontario della protezione civile Giuseppe De Paoli, travolto da una pianta di faggio durante i lavori di ripristino di una strada forestale nel luglio 2023. Il procedimento vede imputati il sindaco di Preone, Andrea Martinis, e il coordinatore locale della protezione civile, Renato Valent, accusati di omicidio colposo. In aula era presente una folta delegazione di sindaci del territorio a dimostrare la loro solidarietà al primo cittadino coinvolto nella vicenda giudiziaria. Dopo alcune udienze tecniche si è entrate a Udine nel vivo del dibattimento del processo per la morte del volontario della Protezione Civile Giuseppe De Paoli, travolto da una pianta di faggio il 29 luglio 2023. Stava verificando l'accessibilità alle cascate dell'Arzino dopo alcuni fortunali. Vicenda che ha fatto scattare in regione il blocco delle attività di protezione civile da parte di molti comuni, in solidarietà agli imputati, il sindaco di Preone Andrea Martinis e il coordinatore dei volontari della Protezione Civile Renato Valent, accusati di omicidio colposo per non aver valutato i rischi dell'attività e non aver fornito attrezzature e formazione adeguata, alla stregua di datori di lavoro. Anche oggi l'aula di tribunale, giudice Falischini Barnaba, era gremita di fasce tricolori, i sindaci della Carnia, della Valcanale Canal del Ferro e della zona collinare. Ha testimoniato il consigliere comunale Fabio Missana. Era con Valent, uno dei due imputati, e la vittima De Paoli, ex vigile del fuoco e volontario, negli istanti in cui la ceppaia l'ha travolto senza lasciargli scampo. Il decesso sarebbe stato constatato poi dal medico sul posto. Su quel tratto c'erano almeno 500 metri cubi di piante cadute e la strada andava liberata per renderla transitabile. Dopo un paio di sopralluoghi si prevedeva un intervento breve, di massimo un'ora, di natura emergenziale. Il faggio era schiantato al suolo, ceppaia al vento, e si appoggiava sul versante con la chioma sulla strada. Sgomberata la strada dalla chioma di questa pianta, i tre, al momento dello schianto, stavano operando su altri tronchi. Ho sentito un crack, almeno nella testa un crack, a cui è seguito un vum, un movimento, ha detto in aula Fabio Missana. Mi sono sentito della polvere venire addosso e quando mi sono girato c'era una specie di muro davanti a me. Era la ceppaia, non trovavo più Beppino, poi ho visto un suo scarpone. È stato ucciso da un colpo alla testa di un ramo di diametro relativamente piccolo. Con i nostri mezzi, ha concluso, potevamo operare in sicurezza per quell'intervento, ma non mi spiego come sia potuta cadere la pianta. L'udienza è ancora in corso, le domande del PM Gondolo, degli avvocati Ghidina, Mainardis e Franco vertono sui costi di sicurezza, gli strumenti e le procedure da seguire per questo genere di interventi. Saranno sentiti in giornata anche azienda sanitaria, ditte boschive e corpo forestale. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca: ai carabinieri di Muggia hanno arrestato in due operazioni distinte due persone di nazionalità rispettivamente croata e svizzera e sequestrato 178 grammi di sostanza stupefacente. Il primo intervento è avvenuto presso il valico di Fernetti, dove nel corso di un controllo sul mezzo guidato dal cittadino croato i militari hanno trovato in un borsone della marijuana confezionata e occultata, pari appunto a 178 grammi. L'uomo è stato arrestato in flagranza con l'accusa di spaccio. La seconda operazione è avvenuta a Pese, quando dai controlli sulla vettura guidata dal cittadino svizzero che si apprestava a lasciare il nostro paese, è emerso che sull'uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Brescia per il reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato dunque arrestato e portato al carcere di Trieste. La polizia locale di Trieste ha concluso tre indagini relative ad altrettanti incidenti stradali con soli danni materiali avvenuti nelle scorse settimane in città. In ciascuno degli episodi i responsabili si erano allontanati dal luogo del sinistro senza lasciare dati utili alla loro identificazione. Attraverso un accurato lavoro di osservazione, gli operatori sono quindi riusciti a isolare dettagli minimi ma significativi che hanno poi consentito di individuare i responsabili degli incidenti e fornire così alle parti lese tutte le informazioni necessarie per avviare le pratiche di risarcimento del danno subito. Finora, nel 2025, la polizia locale è intervenuta su 136 incidenti con fuga e 16 di essi con omissione di soccorso. Ieri sera al comando provinciale dei carabinieri di Gorizia si è tenuto un momento di cordoglio e riflessione per onorare la memoria dei tre militari tragicamente scomparsi l'altro ieri in provincia di Verona nello scoppio di un'abitazione mentre adempivano i loro compiti al servizio dello Stato. Un giovane goriziano di 20 anni ha voluto rendere omaggio ai carabinieri caduti deponendo un mazzo di fiori davanti all'ingresso della caserma. Un gesto semplice ma intenso che ha toccato profondamente i presenti e ha rappresentato l'abbraccio simbolico dell'intera comunità goriziana ai militari dell'arma. Mentre il governo sta predisponendo gli ultimi dettagli della manovra finanziaria, c'è già una conferma per quanto riguarda i bonus edilizi. Il 50% di detrazione, confermato per le abitazioni principali, resta anche nel 2026. Tra le misure confermate spicca la proroga del bonus ristrutturazioni, che mantiene inalterate le detrazioni per i lavori edilizi anche per il 2026 del 50% sulla prima casa e del 36% sulla seconda, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Non sono previsti limiti legati al reddito, mentre resta aperta la possibilità di ridurre i tempi di recupero della detrazione da 10 a 5 anni, ipotesi considerata da più parti molto difficile ma ancora allo studio. Nessuna conferma invece per lo sconto per la rimozione delle barriere architettoniche architettoniche, attualmente al 75%, e vale solo per alcune tipologie di lavori come l'installazione di ascensori. Per il presidente di ANCE Friuli Venezia Giulia Bertuzzo, la decisione del governo Meloni rappresenta un segnale di continuità dopo il rallentamento del settore edilizio nel 2025, quando, ricorda il presidente regionale dell'Associazione Costruttori, citando i dati dell'Agenzia delle Entrate, i bonifici parlanti per le ristrutturazioni sono calati del 35%. Promuove gli sgravi anche la presidente dell'Unione Piccoli Proprietari Immobiliari di Trieste Marinelli, perché, sostiene, danno la possibilità di svecchiare l'ancora ampio patrimonio edilizio rimasto sfitto e rimetterlo sul mercato per residenti e studenti a fronte della forte carenza di alloggi anche per l'avanzata delle locazioni turistiche. Serve anche più informazione sugli aventi diritto alle detrazioni fiscali, rileva Marinelli, invitando, prima di aprire la pratica, a informarsi bene su questo aspetto che spesso, dice, viene ignorato. Uppi ricorda che per ottenere lo sconto più alto oggi bisogna essere titolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile ristrutturato e avere lì la propria residenza, ma soprattutto è necessario avere capienza fiscale, ovvero un IRPEF sufficiente per recuperare la quota annuale di detrazione, diversamente la quota in eccesso non è rimborsabile e non può essere recuperata negli anni successivi. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora i dati dell'inflazione diffusi questa mattina dai comuni di Trieste e Udine. Nel mese di settembre la stima definitiva dell'indice dei prezzi al consumo a Trieste ha registrato un meno 0,6% rispetto ad agosto, dato congiunturale, e un più 1,8% rispetto a settembre 2024, dato tendenziale. Nel precedente mese di agosto 2025 la variazione congiunturale era del più 0,1% e la tendenziale del più 1,9%. A Udine il dato congiunturale registra un calo dello 0,6%, mentre rispetto al 2024 l'aumento è stato del 2%. Ad agosto il dato congiunturale aveva segnato un più 0,2% e quello tendenziale un più 1,9%. A trainare il rialzo dei prezzi tanto a Trieste quanto a Udine sono stati soprattutto due voci: gli alimentari, in un anno rincarati di circa il 4%, e i servizi ricettivi di ristorazione, che sono cresciuti del 5,3% a Trieste e del 6,5% a Udine. Sono stati presentati dalla Trip Mare i due nuovi rimorchiatori che prenderanno presto servizio nelle acque del Golfo di Trieste. Con l'aumento del traffico nel porto di Trieste aumenta l'esigenza di sicurezza per la salvaguardia della vita in mare. Un ausilio importante arriva dai rimorchiatori, navi compatte e potenti in grado di spingere, trainare e accompagnare nel porto anche le grandi navi petrolifere e da crociera. Alla Capitaneria di Porto sono arrivati due nuovi rimorchiatori gemelli, più potenti ancora degli altri modelli della flotta, e che Trip Mare S.p.A. ha acquistato per 8 milioni di euro ciascuno. Sono lunghi 25 metri, non hanno poppa o prua perché versatili, silenziosi e compatti, hanno un vano macchine con motore automatizzato e gestito in sala computer. Alberto Cattaruzza, amministratore delegato di Trip Mare. Posso lavorare in tutte le condizioni ed entrare in tutti gli spazi più angusti, ma quello che è molto bello, di cui sono molto orgoglioso, rispetto alla media degli altri rimorchiatori abbiamo aumentato la potenza a 80 tonnellate di tiro contro una media di 50. Sono stati costruiti dalla Daimler, che è un'azienda olandese in Vietnam, con tutti i motori e attrezzatura europea e americana, e poi hanno navigato per arrivare a Trieste. Captain Cat e Mad Riegel, questi i nomi dei rimorchiatori in concessione alla Capitaneria di Porto di Trieste, fanno parte della macchina di salvataggio, intervengono in caso di forte maltempo, incendi e altre emergenze. Luciano Del Prete, direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia e comandante del porto. Era necessario aumentare la potenza dei rimorchiatori in virtù del gigantismo navale, che è sempre più pregnante, e anche in virtù di quelle che sono le esigenze di in chiave green, quindi di emissioni in atmosfera. Questi nuovi mezzi infatti rispettano in maniera più attenta quelle che sono le emissioni in atmosfera. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12:44 minuti e 15 secondi apriamo la pagina del tempo con le previsioni. Il cielo da sereno variabile su pianura e costa, coperto in montagna. Sulla costa soffia borino, vento da est-nord-est e grecale da est fino a 30 km all'ora. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 16 gradi, a Pordenone 15 gradi e mezzo, a Udine 16 gradi e 5 decimi, a Gorizia 17 gradi, a Piancavallo e Sappada 8 gradi, a Forni di Sopra 9 gradi e mezzo, a Tarvisio 10 gradi, a Tolmezzo 13 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 2 gradi, sul Monte Zoncolan 4 gradi e 5 decimi, sulla costa a Grado e Lignano ci sono 17 gradi e mezzo. Queste le previsioni. Oggi pomeriggio e in serata sulla costa avremo cielo sereno con bora moderata, in pianura poco nuvoloso con vento da est moderato, sui monti cielo variabile. Questa scuola mi distrugge, un grido d'allarme da non lasciare inascoltato, il tema del al centro dell'ultimo appuntamento di Affascinati dal cervello, la rassegna sulle neuroscienze dell'Istituto Regionale di Studi Europei, nell'auditorium Casa dello Studente Zanussi di Pordenone, pensato in particolare per i ragazzi delle scuole. Questa scuola mi distrugge il titolo dell'incontro e il grido d'allarme al centro del terzo e conclusivo appuntamento di Affascinati dal cervello, 18ª edizione della rassegna sulle neuroscienze promossa dall'IRSE, Istituto Regionale di Studi Europei, rivolto alle scuole della città nell'auditorium Casa dello Studente Antonio Zanussi di Pordenone con due accademici esperti di burnout connesso alla dimensione scolastica. Enrico Colantoni è professore associato del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Padova. L'ansia da prestazione legata alle verifiche, ai compiti è sicuramente un fattore che impatta sullo stress in un'età in cui la gestione dello stress è ancora, diciamo, in via di formazione, di definizione. Che cosa si può fare, che cosa si può migliorare? Io credo che in questo periodo i ragazzi siano abbastanza in grado di parlare di questi aspetti, a patto che vengano ascoltati naturalmente nella maniera corretta e che vengono ascoltati rispetto al linguaggio che un giovane può avere per raccontare dei propri problemi. Prevenzione e percorsi mirati non solo per l'ansia da prestazione, ma anche per le relazioni sentimentali a rischio in un'età così delicata. Anna Laura Nocentini è professoressa associata in psicologia dello sviluppo e dell'educazione all'Università di Firenze. Possiamo agire in termini di costruzione di competenze, di love skills, e quindi di competenze più legate all'intimità, all'affettività, e possiamo poi supportare quei casi in uscita da queste relazioni sentimentali che necessitano di un maggior supporto attraverso degli interventi più individualizzati. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, Trieste ospita un appuntamento dedicato al tema della lotta allo spreco alimentare e al sostegno delle filiere solidali. A promuoverlo la Fondazione AgriFood Bioeconomy FVG, in SIEL e l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con interventi di esperti e rappresentanti del mondo accademico, del terzo settore e dell'innovazione tecnologica, tra cui Alexandra Tomic dell'Università di Vienna, Elena Marchesic dell'Istat e Don Luigi Gloazzo, direttore della Caritas Diocesana di Udine. Appuntamento alle 15 all'Hotel Savoy Excelsior a Trieste. E da 10 anni l'associazione Trieste recupera e raccoglie i cibi non più vendibili del mercato cittadino e dei supermercati, proprio per distribuirli alle persone più bisognose. Abbiamo trascorso una mattinata insieme ai volontari. Il muletto porta fuori decine di cassette di pesche ormai troppo mature, non più vendibili. Il mercato all'ingrosso di Trieste chiude per il fine settimana e la frutta e le verdure che non arriverebbero al lunedì successivo sono molte. Ci pensano i volontari di Trieste Recupera a evitare che vengano buttate via e a consegnarle a migliaia di famiglie bisognose. Carlo Mulner, vicepresidente di Trieste Recupera. Noi abbiamo dei referenti per i vari rioni, i quali poi hanno a loro volta dei referenti nei vari rioni. Per esempio, a Borgo San Sergio loro mettono la merce a terra e la gente viene giù. Naturalmente parliamo di rioni che non sono, diciamo, sono gente che ha bisogno. Val Maura la stessa cosa. L'associazione è stata fondata dall'attuale presidente Paolo Luisi con altri 6 soci 10 anni fa. Alla frutta e alla verdura si aggiungono cibi confezionati, panetteria e prodotti in scadenza, prelevati da supermercati e piccole realtà commerciali. Oggi sono una 20 i volontari che caricano i prodotti su furgoni o anche sulle proprie auto private. Lo spazio infatti non è mai abbastanza. Tra i più attivi c'è Vladan Aleksic. Mi è capitato 10 anni fa una distribuzione sotto casa. Siccome in quel frangente non facevo tanta roba perché mi occupavo di una persona non autosufficiente, ho cominciato ad aiutare e da allora sono 10 anni che aiuto, facciamo questo lavoro qui. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora il caso degli odori nauseabondi segnalati dai cittadini di alcuni rioni di Trieste, che potrebbero originarsi dai depositi della SIOT in zona industriale. Ieri il sindaco di Piazza e alcuni consiglieri si sono recati in visita all'oleodotto transalpino a San Dorligo della Valle, accompagnati dal presidente e amministratore delegato Alessandro Gorla. Sentiamolo. Andiamo avanti a migliorare, mitigare, testare, creare anche nuovi dispositivi e nuove iniziative, no? Quello che mostrano le analisi fatte ad oggi è che con le tecnologie di oggi anche test di laboratorio su piloti, piccoli impianti piloti in campo non arrivano allo zero, se questo è. Quindi la nostra priorità assoluta al momento è mitigare il più possibile e quindi identificare le soluzioni che siano di facile impiego, che possano comunque portare il problema ad essere, passatemi il termine, accettabile quantomeno, no? E poi da lì continuare. Abbiamo identificato questa soluzione, ci tenevamo ad aprire le porte dello stabilimento per permettere alle persone di toccare con mano in qualche modo e verificare di cosa stessimo parlando, e questo è il sistema al momento che sembra dare migliori risultati. Quindi da qui partiamo, ma il percorso continua. Ha per titolo Imparare in Africa il convegno organizzato dall'associazione Jobel di San Vito al Torre per celebrare i suoi 25 anni di attività a sostegno delle popolazioni africane. Ospite d'eccezione dell'appuntamento che inizierà alle 17 nella sala della Fondazione Friuli in via Gemona, Udine, sarà Grégoire Ahongbonon, considerato il Basaglia d'Africa proprio per la sua opera di desegregazione dei malati di mente. E sempre a Udine sono stati presentati poco fa nella sede della regione i super dizionari de lengue furlane curati dall'ARLEF, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, la più potente piattaforma online sulla lingua friulana che attraverso un'unica interfaccia rende accessibili i contenuti di tre fondamentali risorse digitali: il Gran Dizionario Bilingual Talian Furlan, il Dizionario de lengue furlane e il Dizionario dei Cognons. Un super dizionario perché è uno strumento per la salvaguardia della cultura friulana e perché su un'unica piattaforma online riunisce il dizionario bilingue italiano-friulano, il monolingue e quello dei cognomi. L'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana lo ha reso gratuito e accessibile a tutti. Si trova sul sito dell'ARLEF ed è destinato a studenti, ricercatori, comuni cittadini e appassionati di una lingua che deve essere conservata e tramandata. Eros Cisilino è il presidente dell'ARLEF. È un supporto che è stato creato proprio per un utilizzo facile, immediato, ma questo non pregiudica una certa specificità di tutta una serie di terminologie che portano anche gli esempi di utilizzo, e quindi ci fa capire che la lingua friulana può essere utilizzata tranquillamente anche in settori che alle volte non sono quelli propriamente casalinghi, ma hanno specificità, come dicevo, molto alte e professionali. 70.000 voci italiane e più di 68.000 friulane nel dizionario bilingue, 7.000 lemmi e 51.000 frasi in quello monolingue, e poi ci sono 8.000 cognomi per poter risalire al significato e alla storia di un cognome. Walter Cisilino è il direttore dell'ARLEF. Dove si trova sia la spiegazione dell'origine del cognome, sia anche tutta la documentazione bibliografica e anche archivistica, come per esempio quando è stato trovato, o meglio di che data è il primo documento che attesta quel cognome. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sarà completamente dedicata alla gestione dei conflitti e alla costruzione della pace l'edizione di quest'anno della Scuola di Politica ed Etica Sociale dell'Arcidiocesi di Udine, che oggi sarà inaugurata alle 17.30 a Palazzo di Toppo Wasserman dal monaco Sabino Chialà, priore della comunità ecumenica di Bose, con un intervento dal titolo «Riflessione sulla natura del potere». Una notizia di sport: per la pallanuoto maschile, debutto stagionale in Europa per Trieste, che questa sera per la prima partita della fase a gironi di Eurocup ospiterà la Piscina Bianchi il Barcellona, avversario di assoluto blasone. Tra gli alabardati assente Francesco Faraglia, sulla via del recupero invece il centroboa Luca Marziali, tenuto a riposo precauzionale sabato scorso. L'inizio del match alle ore 20. E siamo agli spettacoli. Per la stagione della Contrada debutta alle 20.30 a Teatro Bobbio di Trieste la nuova produzione della Contrada dal titolo Baruffe, dove Goldoni incontra la Trieste degli anni 30, scritto da Lino Marrazzo e Eva Maver, con la regia dello stesso Marrazzo. Lo spettacolo è una rilettura contemporanea e audace del capoluogo goldoniano, le Baruffe Chiozzotte, repliche fino al 26 ottobre. Sentiamo allora la protagonista, Ariella Reggio. Cambia l'epoca, siamo nel 1930, poi cambia luogo, perché siamo a Trieste, in Città Vecchia, durante il fascismo. E naturalmente tutto molto leggero, molto fruibile, con sorrisi, con cose anche da pensarci. Insomma, però certo che le baruffe restano, restano. Siamo quattro donne, quattro uomini, quattro attori, quattro attrici, e naturalmente le baruffe accadono nella piazzetta per cose futili, come succede anche ora, però insomma non finiscono così male come oggi. Una commedia come questa di Goldoni è attuale ancora oggi? Ma sempre, Goldoni è sempre attuale, i grandi sono sempre attuali, ci si trova dentro tante di quelle cose che corrispondono al giorno d'oggi, che veramente ci si meraviglia e si dice, ecco, questi sì, che erano dei geni, che sapevano scrivere per il teatro soprattutto, cosa che sta diventando sempre più difficile, e quindi sì, sicuramente. Comunque ci sono molte canzoni interpretate benissimo, da Marzia Postonia, da Enza De Rosa, che si è occupata proprio delle musiche, Elena Cusu ed io, noi siamo le quattro donne. Inoltre, poi dico anche i nomi degli uomini, ma sì, dico, dai. Allora, Maurizio Repetto, Maurizio Zacchigna, che è quasi il protagonista, Giacomo Seguglia, Omar Macluffi. Quindi tra giovani e meno giovani succede il tutto. Soprattutto siamo otto attori a vista, siamo seduti in palco e io chissà perché sono la più vecchia, ma la vecchia attrice dovrei essere, quella che spero di non essere oggi. E sempre a Trieste inizia questa sera la stagione dedicata al musical del Teatro Rossetti. A inaugurarla l'indimenticabile colonna sonora di Cantando sotto la pioggia, in una versione diretta da Luciano Cannito e interpretata da Flora Canto, Lorenzo Grilli e Martina Stella. Sipario alle 20:30. Una storia sul confine, sull'Europa della cortina di ferro, sulle menzogne familiari e collettive e sulle ossessioni legate alla memoria e all'identità. È il titolo dello spettacolo Alla ricerca della lingua perduta, scritto da romanziere Goran Vojnovic, che va in scena stasera come seconda anteprima di Lengis, il festival dedicato al teatro delle lingue minoritarie, realizzato dal Teatri Stabil Furlan alle 20:45 al Palamostre di Udine. Una nuova inchiesta storica analizza i retroscena che hanno portato alla strage di Portsus. La propone la storica Alessandra Kersevan e si intitola Portsus 1945, prova di Gladio sul confine orientale. Sarà presentato il volume alle 18 al Teatro San Giorgio di Udine in via Quintino Sella. Con Alessandra Kersevan dialogherà Enrico Petris. E siamo giunti alla fine di questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Ettige e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Zeno Duban. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.